Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:06, buona domenica da Stefano Gallarini e anche questa domenica staremo insieme fino a mezzogiorno con il rotocalco domenicale di Radio 24 e oggi riprende anche la possibilità per voi di portare a casa il catalogo e i biglietti d'ingresso della mostra di Francesco Guardi al Museo Correr, prorogata visto che ha avuto grande successo al 17 febbraio. E per riuscirci dovrete essere capaci di associare una canzone al titolo di un'opera dell'artista veneziano, ovviamente anche grazie agli aiuti che vi darò io, e la canzone è questa. E poi più in alto è ancora su, fino a sfiorare Dio. Questo era Nato Zero con Più Su, che è collegabile, è una delle opere di Francesco Guardi. Dovrete riuscire a capire quale opera, poi vi darò anche qualche aiuto. Vi ricordo che si giocherà più tardi alle 11:40 e potete prenotarvi però da adesso il numero 800 24 00 24. Oggi parliamo di satira e par condicio, parliamo cioè dei luoghi dove in qualche modo si faceva politica o comunque si parlava dei problemi sociali senza dover incorrere in qualunque tipo di regola oppure di censura. Sto parlando di quello che è il vero cabaret, che niente ha a che fare con quello che siamo abituati oggi a vedere in televisione. E per cominciare la puntata, ecco questa bellissima canzone di Fabrizio De André. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di ciccirinella compagni di cella precisa mamma. Ho scelto questa canzone di Fabrizio De André perché l'11 gennaio sono trascorsi 14 anni dalla sua morte, ma anche perché in questo testo, scritto da De André a quattro mani con Massimo Bubola e musicato da Mauro Pagani, si raccontano due fatti attualissimi. Uno è lo stato delle carceri italiane e l'ipotesi di trattativa fra Stato e mafia. Oggi quindi parliamo della vera storia del cabaret e per farlo, ospite con me in studio, c'è Flavio Reglio. Ciao Flavio. Ciao. Buona domenica, ciao. Grazie anche a tutti voi. Insieme a Gianberto Monti avete scritto finalmente la vera storia del cabaret, dall'uomo delle taverne alla Beat Generation. Perché l'uomo delle taverne ha cominciato a fare cabaret? Perché beveva? Cosa che faceva l'uomo delle taverne? Ma sì, in realtà questo è un modo così divertente, se vogliamo, di dare i due estremi, no? La preistoria giocata in Kalenburg con l'uomo delle taverne, che poi in realtà ha anche un senso, perché sì, le taverne sono state le prime, i primi posti dove si sono riunite le persone per bere qualcosa, al di là del fiume, prima c'era il fiume, poi è arrivata la taverna. E la Beat Generation, dove in realtà Beat non è scritto Beat come... Ma Beat, parlando di informatica. Esattamente, quindi è il presente. Diciamo, dalla preistoria a oggi, sostanzialmente, vuol dire quel sottotitolo. Ma diciamo che il discorso delle taverne è il discorso iniziale e poi si evolve tutto. Infatti noi abbiamo dovuto ricostruire la storia del vino, della birra e del caffè. Per quello dicevo, no? Che si beveva. Sì, certo, perché chiaramente la storia del cabaret passa attraverso luoghi alternativi e i luoghi alternativi erano questi luoghi di ritrovo che in un primo tempo, fino al 1600, diciamo, gravitano attorno alla birra e al vino e poi arriva il caffè. E nascono i caffè in alternativa alle osterie. Quindi osterie e caffè sono i luoghi dove nasce il cabaret. Nasce il Gatto Nero. E questo è, sì, è il primo passo reale del cabaret. Anche se in realtà ci sono stati degli precedenti, no? Sì. In qualche modo. La storia del cabaret si può vivere attraverso un fil rouge che passa attraverso tutte le epoche, perché in realtà parlare di cabaret vuol dire parlare non di comicità, tout court, ma vuol dire parlare di uno spirito che pervade un certo modo di fare lo spettacolo. In effetti il cabaret nasce alla fine dell'Ottocento, lo chat noir, in alternativa a un'altra forma di spettacolo che assomiglia molto dal punto di vista formale al cabaret, ma che non è cabaret, che è il varietà, che ha almeno un 100-150 anni di storia in più rispetto al cabaret. Ecco, una domanda però è ovvia, è: ma cos'è veramente il cabaret? No? Perché adesso ormai è un termine talmente generico, è tutto cabaret. Certo. No? E poi sono abituati al cabaret, il musical che abbiamo visto interpretato da Liza Minnelli e da altri personaggi invece a teatro. E quindi un po' ci si confonde. Il cabaret, sì, può essere varietà, per esempio, oppure è tutt'altro. Ecco. Esattamente. Allora, il punto focale di tutta questa faccenda sta nel fatto che ormai per la maggior parte delle persone il cabaret è comicità. L'errore di fondo è questo: considerare il cabaret uguale comicità. Il cabaret è qualcosa di più della comicità. Diciamo che c'è anche una fetta di comicità che passa attraverso il cabaret, ma non tutta la comicità è cabaret. È difficile da capire. Beh, sì, diciamo che la comicità, se fai con gli insiemi e i sottoinsiemi è più semplice, no? Fai un diagramma di Venn e lo vedi bene. Cioè, la comicità è un concetto molto ampio. Sì. Sono tanti tipi di comicità. Però pensare che tutta la comicità sia cabaret è come pensare che tutto quello che si mangia sia caviale. Ecco, faccio una domanda: il cabaret deve essere per forza parlato? No, può essere anche cantato. Okay. Non ha importanza, perché il problema vero non è la forma, ma come dicevo prima, è l'indole. Il cabaret è un... nasce in alternativa al varietà, prendendo spunto tra l'altro, sì, dal varietà, perché quando Rodolfo Salì, che è stato il fondatore dello chat noir, vuole aprire questo nuovo locale, cioè in quel momento a Parigi era ricchissima di varietà, di café chantant, era il simbolo della Belle Époque il café chantant, quindi il divertimento, le ballerine, gli sketch di natura comica, dove si cercava molto la risata a tutti i costi, semplice, esatto, senza pensare. Esattamente, quella cosa per cui basta ridere, no? Basta ridere, divertirsi, belle donne, gnocche, via, tutto questo discorso qua. Arriva questo tipo e dice: no, momento, io voglio convogliare nel mio locale prendere spunto, no, come metodologia. Ma voglio fare una cosa diversa. E convoglia delle cose interessantissime. Lui è il proprietario delle Chat Noir. Sì, giusto, siamo a Parigi. Sì, esattamente. E cosa pensa di fare per cambiare le cose? Beh, lui è un pittore, tanto per cominciare. Sì. Quindi prende spunto, pensa, dall'ultimo ritrovo degli impressionisti per costruire il suo locale analogamente a quello. Infatti è molto un locale molto ricco di quadri, di presenza di pittori, che amici che in qualche modo intervengono. Era all'interno. Un pittore non particolarmente bravo. No, ecco, era proprio veramente... Aveva dei nomi illustri intorno a sé. In quell'epoca, insomma, all'epoca degli impressionisti era difficile disegnare, dipingere e avere un ruolo, diciamo, già loro, e tra l'altro gli impressionisti erano una nicchia, sì, quindi, perché non erano ufficialmente riconosciuti, però appunto si ritrovavano in questo locale che era lì nella zona dove poi nacque lo Chat Noir, che era la Grande Pinte, l'ultimo ritrovo degli impressionisti, sì, e Salì era un frequentatore di questo locale, in quanto pittore amava andare in questo locale e lo amava tantissimo, appunto, che diceva: ecco, il mio locale io lo voglio fare così. No, poi casualmente un giorno in quel locale incontra un altro personaggio straordinario, che era Émile Goudeau. Émile Goudeau era un giornalista, era uno che negli anni precedenti, non a Montmartre ma dall'altra parte, a Montparnasse, cioè nel quartiere latino di Parigi, aveva aperto un circolo di poeti d'avanguardia, che erano gli idropatici, è già un nome straordinario secondo me, gli idropatici. Questi avevano fatto per qualche anno la loro attività ed erano poi saltati per aria insieme all'ultima serata dove avevano fatto scoppiare di tutto, però erano dei folli, follia pura, e facevano una grandissima sperimentazione poetica, sperimentando tra l'altro i primi collegamenti tra la poesia e la musica. Infatti siamo agli albori della canzone d'autore. Lui, amico di Godot, dice: perché non ricostruisci il tuo gruppo nel mio locale? Quindi convoglia, diciamo, la poesia d'avanguardia all'interno dello Chat Noir. Questo quadro viene poi completato con l'assunzione di Aristide Bruant, che è stato il primo grande cantautore, che ha cantato, diciamo, il lato oscuro della Belle Époque con la sua chanson canaille. Quindi il cabaret nasce cantando. Il cabaret nasce cantando, nasce recitando. Il cabaret è un insieme di cose che non è solo ed esclusivamente comicità. E questo è il punto. Ecco, allora, quello che noi ormai intendiamo oggi nominare e definire cabaret, no? Vediamo, è un altro genere. Cabaret. No, è un altro genere di spettacolo. Ha un nome ben preciso, si chiama varietà, si chiama avant spettacolo, si chiama rivista. Ancora, questo. Come una volta. Ma sì, ma è ancora quello. È ancora quello, non è cambiato. E l'errore è considerarlo cabaret. Bene, quindi se avete qualche domanda anche da fare su questo argomento, 349-238-6666 per i vostri messaggi, e adesso gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Su Radio 24 stiamo parlando di comicità, c'è Flavio Reglio con me, tra pochissimo Gian Gilberto Monti, forse è già lì. Gian Gilberto. Sì, sono qui, sento ecco. Molto, molto male, ma ci sono. Perché da qualche parte ovviamente è al telefono, come potete sentire. Insieme hanno scritto La vera storia del cabaret, dall'uomo delle taverne alla Beat Generation. Allora, Flavio stava raccontando l'inizio di tutto, di come il cabaret nasce cantando. Come vi siete divisi i compiti, Gian Gilberto, tu e Flavio? Se ve li siete divisi, ma poi. Questa non lo so. è una bella domanda. Quanto vinco? Beh, intanto ciao, Buongiorno, salutare è sempre una cosa, ma io di educazione. Sono sull'autostrada mentre tu sei comodamente seduto. Dunque, allora, innanzitutto io mi sono occupato molto della parte storica che riguardava in qualche modo l'origine francese del cabaret, e poi ho lavorato sul finale parecchio sulla televisione commerciale. E naturalmente in mezzo ci siamo scambiati opinioni, abbiamo litigato per un paio d'anni, ma ci siamo riusciti a fare questo libro. Ecco, su cosa litigate di solito? Qual è la cosa che proprio non vi vede d'accordo? Su ogni riga, vabbè, andiamo bene allora. Quindi pesco a caso. No, ma perché in realtà Flavio è molto più sovietico di me in certe situazioni. Comunque è stato anche molto divertente, perché la differenza tra noi e dei critici o dei giornalisti è evidente, cioè che noi siamo sul palco, quindi facciamo anche questo mestiere e conosciamo la fatica. E da tanti anni? Da parecchio, diciamo. Sì, diciamolo. E naturalmente il nostro punto di vista è proprio diverso, è un punto di vista più appassionato, magari meno saggistico e più divertito per certi versi, insomma, e d'altra parte c'è anche la voglia di trasmettere questo mondo affascinante, insomma. Ecco, beh, insomma, entrambi però, cioè, cantate e fate proprio quello che è definito il cabaret, come abbiamo capito, quindi sì, con lui ha una maggiore predisposizione al varietà. Sì, ecco, su questo litigherete, lo so. È un già. Animale, Aurelio, un animale. No, c'è da dire che io, provenendo dalla musica, sì, ho una grande, come dire, spiccata tendenza all'intrattenimento, mentre Flavio è molto più satirico ed è più di parola, però entrambi abbiamo radici abbastanza simili. Anche lui poi è a suo modo uno chansonnier, come dire, ruspante in qualche modo, e c'è da dire che poi la musica è stata importante per le origini del cabaret, perché nello stesso Chat Noir, alla fine del 1800, è nata anche la canzone d'autore. Ecco, io prendo spunto dalla copertina del vostro volume, edito da Garzanti, tra l'altro è uscito da pochissimo, può essere un ottimo regalo di Natale. Divertirsi nei cabaret degni di questo nome, quindi bisogna già capire quali possano essere, è anche una questione di cultura e di intelligenza, nutrita dal piacere della novità e dal gusto della scoperta. Allora, io leggo questo, l'interpretazione, prima di Flavio Reglio e poi di Gian Gilberto Monti. Beh, sì, perché il cabaret storicamente si afferma anche e soprattutto come sperimentazione di nuovi linguaggi e come ricerca. Quindi non è solo un fatto di intrattenimento puro, è una forma di intrattenimento, però attenzione che c'è un mondo dietro di cose strane, di cose, se pensiamo al dadaismo, no? Per dire che fa parte della storia del cabaret, ma come per esempio tutto quello che succedeva nella Germania. E sono tante forme sperimentali, e quindi se tu non sei una persona curiosa che vuole in qualche modo assistere a delle cose particolari, ma ti accontenti di vedere uno che ti racconta qualche cosa, qualsiasi cosa sia, non sei uno che può frequentare un cabaret, perché nel cabaret ti può capitare di vedere delle cose stranissime, strampalate. Che pensa per esempio al fenomeno del futurismo. Sì. Le performance dei futuristi erano stranissime e di diritto appartengono alla storia del cabaret. Quindi sono cose così come ci sono cose più semplici, ma per esempio più satiriche, più cattive anche, perché il cabaret è anche un po' bastardo, insomma, non è così... come dire, beh, non è leggero, no? Questo abbiamo capito, non è mai leggero, sì, e neanche, fine a se, e neanche fine a se stesso, ma può anche esserlo, è leggero, cioè non è necessario, però diciamo che a tratti può anche percorrere una via più leggera, cioè, leggero ma ti fa pensare, beh sì, è un pochino più aggressivo, ecco, più corrosivo a volte. Gian Gilberto Monti. Sì, è un po' come la musica, che si tende a definire in generi o in sottogeneri. Alla fine poi la musica, come dire, o è bella musica o è brutta musica, al di là dei generi e delle specializzazioni. Il cabaret, o comunque la comicità cabarettistica, si distingue anche a volte in una risata bassa, facile, di largo consumo, che è poco interessante, cioè diciamo non sfrutta le intelligenze, non solletica, non provoca dubbi, non fa venire domande, magari diverte, però è un divertimento facile, mentre invece un altro tipo di risata è una risata più cattiva. A me viene in mente, Maurizio Crozza in televisione è infinitamente più diverso delle cabarettate, tra virgolette, che non erano poi tali, del drive-in degli anni Ottanta, insomma. Ecco, quindi c'è una comicità che arriva, sì, come dire, come un pugno nello stomaco, e una comicità che non fa nessun effetto. Ecco, però stai parlando di comicità, non stai parlando di cabaret. Ecco, perché siamo qui a fare questa differenza, perché voglio capirla fino in fondo. Siamo qui per questo, no? E allora io mi chiedo, con gli esempi che abbiamo oggi in televisione, parlo di televisione, dovrei parlare di locali, però è già diverso, perché non so quanti dei nostri ascoltatori vadano a vedere il cabaret in locali, come andrebbe fatto, ma anche perché i locali sono sempre meno quelli che propongono il cabaret con la C maiuscola. Ecco, allora, con gli esempi che abbiamo davanti, cosa possiamo considerare cabaret e cosa no, Flavio, secondo te? Ma guarda, adesso io ti dirò delle cose che ti sembreranno strane. No, io ascolto. Adesso mi sfugge il nome del giornalista che fa l'intervento alla fine della trasmissione di Fazio. Aspetta. Vuoi dire il vice direttore della Stampa? Sì. Gramellini. Gramellini, bravo. Lui, i suoi interventi sono interventi da cabaret, dove però nessuno si senta offeso, perché è chiaro che se uno concepisce il cabaret come viene concepito oggi, che è una parola che ha assunto un termine negativo, no? Infatti tu pensa tante volte, quando ci sono le discussioni politiche, che qualcuno dice qualche cosa di superficiale o ritenuto tale, l'altro, l'avversario, gli risponde: senti, non siamo mica qui a fare il cabaret, cioè non facciamo il cabaret, si usa questa terminologia, sì, certo, che è dispregiativa, capisci? Sì. In realtà sono quelli che lavorano nel cabaret che, quando qualcuno fa qualcosa di superficiale, dovrebbe dire: senti, non siamo mica qui a fare politica, visto il livello della politica di oggi. Però il punto è proprio questo qui, che gli interventi più interessanti di cabaret non li fanno in TV i comici o i cabarettisti. Comici, certo. L'altro che io ritengo un formidabile elemento da cabaret è, sì, Marco Travaglio. Sì. Che lo so che può dare fastidio con l'accezione che c'è del tema, con l'accezione storica questo, corretta, certo, invece è un gran complimento, perché quello è il modo di fare il cabaret. E passa attraverso quel tipo di linguaggio lì, dove tu racconti delle cose usando magari a tratti l'arma della satira, l'arma della risata, ma tu vuoi raccontare delle cose. Io ho sempre distinto i comici, diciamo, in, sì, due grandi categorie. Sì. Ci sono i comici che raccontano per far ridere e i comici che fanno ridere per raccontare. Sono due mondi completamente diversi. Alla fin fine ti sembra di vedere la stessa cosa. C'è qualcuno sul palco e c'è un pubblico che ride. Ma è il presupposto del palco che è diverso. Perché c'è chi usa la risata come scopo e non c'è niente di illegale in questo, chiaro? Così come non c'è niente di illegale ovviamente nell'altro metodo, che è usare la risata come strumento per raccontare quello che tu vuoi raccontare alle persone. Gian Gilberto Monti. Ecco, a me personalmente colpisce molto di più, mi affascina, mi diverte la lezione di Dario Fo, cioè è vero che dobbiamo far pensare, però dobbiamo anche far divertire, sempre che ci definiamo comici o comici cabarettisti o cabarettisti a tutto tondo. È vero che oggi c'è questa tendenza, e Flavio dice bene quando cita Travaglio, e più che Grammerini, insomma, a me diverte di più quel tipo di comicità, un po' la Buster Keaton. Travaglio, se notate, non fa un plissé sulla faccia, dice delle cose terribili e alla fine la gente ride lo stesso, un po' come quando Aurelio legge le sue poesie, piuttosto che non c'è una, come dire, trasposizione mimica. Però bisogna anche non dimenticarsi di far divertire. Per esempio, a me vengono in mente appunto sempre Crozza, che secondo me è un grande intrattenitore, e per esempio i fratelli Guzzanti, forse più Corrado che Sabina, perché diciamo da una parte mi piace anche una risata, mi piace anche una spensieratezza. Certo, non è facile ed è una via molto poco popolare, questo è vero. Ecco, non è facile anche per chi appunto fa questo mestiere, perché bisogna informarsi, scrivere, pensare, non è affatto facile. No, cioè, ma poi bisogna avere qualcosa da dire. Esatto. Se vogliamo il comic, il cabarettista di oggi, sì, occhio come usi i termini, smetti di fare il professore, se no sei antipatico. No, ma hai scritto il libro. È terribile, cioè, è una cosa, mamma mia, cioè, avere a che fare con Aurelio, bisogna uscirci la sera, ma durante il giorno è terribile. Ma comunque, a parte questo, bisogna comunque fare, come dire, anche attenzione al circostante, cioè la società ci aiuta molto, se vogliamo, aiuta molti comici, però quando il buffone in questo caso fa il re o il re fa il buffone, e lì le carte si sparigliano, ed è il caso della nostra società, la società in cui viviamo adesso, dove i ruoli si confondono molto. E lì il cabarettista a volte va a nozze, a volte invece cincespica, come si dice, e a volte, secondo me, sfiora la volgarità in certi casi. Non è un mestiere facile, un mestiere che pone attenzione. E beh, ma anche perché a un certo punto subentrano anche le caratteristiche dell'individuo, no? Cioè, se un individuo decide di fare determinate scelte di volgarità o di altre strade, così, cioè, fa parte del singolo. Però quello che io sottolineo è che, questa è sempre stata, tu prima hai chiesto, sì, dove avete litigato, no? Su cosa? Uno degli elementi focali su cui litighiamo sempre, ogni volta. Discutete, mi piace di più, nel senso di confrontarsi. Non puoi litigare con lui mettendogli le mani addosso, ma l'hai visto fisicamente, è inesistente, cioè voglio dire, lo distruggi. E quindi per forza di cosa devi litigare verbalmente? Discutiamo molto, comunque Gian Gilberto io voglio bene. Cioè, meno male che per lui che è così. Allora, il punto è che lui tende sempre, Gian Gilberto, a ragionare sulla comicità. E io invece dico, ok, se vogliamo fare un ragionamento sulla comicità, dobbiamo farlo con i distinguo giusti all'interno di questo concetto molto ampio. Invece io tendo sempre a restringere il campo al fenomeno del cabaret, che è un sottoinsieme, è un pezzo, diciamo, della comicità. Non è completamente. Prima. Il mondo della comicità è veramente molto vasto e molto vario. Io ritorno alle origini, cioè al fatto che in ogni caso il divertimento, la risata, lo scherzo, la buffoneria aiuta da sempre a far passare altri contenuti, e in questo modo, ripeto appunto la lezione del maestro, secondo me, che è Dario Fo, lascia un po' il segno, nel senso che poi il pubblico si diverte al momento, poi esce e riflette e magari si diverte un po' di meno, però poi ritorna, non so come dire. Poi ovviamente ogni tempo e ogni luogo ha i suoi Dario Fo che si merita, o forse, come dire, questo pubblico si merita questi comici, e a volte non sono sempre all'altezza. Questo, se vogliamo, io voglio anche in qualche modo ribaltare. Cioè, il comico è un mestiere, o il cabarettista è un mestiere veramente difficile ed è nobile da un certo punto di vista. Bene, grazie Gian Gilberto, che so che stai per raggiungerci nei nostri studi qua a Milano, e grazie Flavio Aurelio, che invece deve andare. La pubblicità e poi torna il riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. Nel rotocalco domenicale di Radio 24 stiamo parlando del cabaret, ovvero di quello che è la, di quella che è la comicità musicale, ma prima di aprire le porte a Gian Gilberto Monti, che è riuscito a raggiungere gli studi di Radio 24, volevo farvi sentire cosa ha scovato la nostra glottologa Francesca Dragotto proprio in merito al vocabolo cabaret. Cabaret, vassoio, guantiera, da una parola francese indicante lo stesso oggetto, il vassoio, ma in una fase più antica indicante invece l'osteria, la taverna. Questo significato si è parzialmente mantenuto anche in epoca moderna, dove troviamo cabaret ad indicare lo spaccio di liquori. Alla base di questa forma è probabile vi fosse un diminutivo di chambre, camera, sala. Il legame tra il significato di cameretta e quello relativo ad un tipo di spettacolo si spiega con un procedimento, la metonimia, basato sul rapporto di contiguità. Il nome della camera è passato ad indicare l'attività più significativa svolta nella camera, servire liquori ed esibirsi in spettacoli. Ecco qui la metonimia. Ciao Gian Gilberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo aggiunto un pezzetto, vedi, a quello che sapevi tu sul vocabolo cabaret. C'è un vocabolo milanese, sì, che usava anche, mi ricordo, sono i miei genitori, gabaret, la mia nonna per la precisione, che significava appunto vassoio. Ed è vero, infatti cabaret mescita di vino, e tra l'altro dobbiamo andare molto indietro, nel 1700 e forse anche un pochino prima, quando la collina di Montmartre era il luogo dove si fabbricava il miglior vino di Parigi, perché erano solo vigne. E appunto alla base della collina di Montmartre, che adesso c'è la zona di Pigalle e tutto il re, sono sviluppati i cabaret, i primi cabaret, che erano poi osterie e poi sono diventati i cabaret veri e propri. Ecco, se tu dicevi che con la storia della canzone comica, quindi il cabaret, ha fatto la storia dell'Italia. È un po' la storia del nostro paese, un po' come in tutti i paesi in realtà, sì. L'ironia, la satira, il sarcasmo, l'umorismo in generale è un modo per raccontare il circostante. Quindi se noi osserviamo la storia della canzone comica dal Novecento ad oggi, stiamo parlando al Café Chantant più o meno fino ai giorni nostri, in realtà ritroviamo luoghi, personaggi, vicende del nostro paese, ed è anche un modo per, da una parte, per sbeffeggiarli, a volte per riderci sopra, e a volte ridendoci sopra si riescono a raccontare delle cose che altrimenti in modo ufficiale appunto non si poteva fare. Beh, certo, par condicio, e poi comunque sia c'erano delle regole, ci sono sempre state delle regole, diciamo, e che la anche una sorta di censura, al di là che sia una vera e propria censura, ma anche solo semplicemente la regola in qualche modo censura i tempi. Sì, poi la storia si ripete alla fine. Certo, beh, è sempre uguale. E da chi partiamo, visto che i nomi poi sono tanti, sono persone che ci hanno accompagnati. Io credo che anni. I primi due grandissimi sono stati Ettore Petrolini e Rodolfo De Angelis. Stiamo parlando dell'Italia e stiamo parlando del 1910 e 1930. Se vogliamo, se guardiamo la carriera di questi due personaggi, Petrolini da un lato, che è molto più noto, forse più popolare se vogliamo, e De Angelis dall'altro, capiamo esattamente quello che è successo nell'Italia tra la fine della Prima Guerra Mondiale e l'inizio del disastro della Seconda Guerra Mondiale, sì, che è un periodo, il cosiddetto regime ventennio fascista, che è analizzato ovviamente storicamente in tutti i modi, ma dal punto di vista musicale si tende a raccontare le canzoncine del ventennio, appunto, sì, che erano quelle fatte apposta per non pensare e per essere così, diciamo, rasserenanti. Petrolini da un lato, prima con le canzoni e le canzoncine e i suoi monologhi soprattutto, e De Angelis dall'altro, riescono in qualche modo a sbeffeggiare il regime. E la cosa straordinaria è che adesso lo possiamo dire perché è passato il tempo, sì, e cioè guardando i due personaggi, loro in realtà dicevano di quello che accadeva, cioè del potere, che era bellissimo, era fantastico. È come se noi dicessimo oggi il governo, qualunque governo, ma fantastico, cioè lavoro per tutti, vai in ospedale, dopo due secondi hai subito una camera bellissima con televisione satellitare, e tu mi dici, tu cosa penseresti? Che io ti sto prendendo in giro. Sì. È quello che facevano, per cui andavano, è una tecnica vecchia della comicità, dicevano va tutto benissimo, e poi invece la gente così rideva, capiva, come quando Raschel, che nel 39 scrive è arrivata la bufera, lo dice in questo modo così comico, surreale, usando la musica, e cioè è una musichetta, è arrivata la bufera, poi con questo suo personaggio da clown teatrale, sì, certo, che appena lo vedevi entrare in scena, come la clownerie, come la clowneria insegna, nell'entrée la gente rideva. E quindi vedeva questo personaggio piccolino con questa enorme casacca che lo copriva e la gente già faceva ridere, in più cantava in questo modo buffonesco e poi invece diceva cose terribili, e che è il gioco appunto della comicità musicale. Senti, tu hai scelto anche tante cose da far ascoltare per raccontare un punto questa, la storia del cabaret e poi della comicità. Volevo ricordare anche che è uscito da pochissimo invece questo, vero? Che sì, questo esce ufficialmente il 21 gennaio. Quindi lo stiamo anticipando. Esatto, si chiama comicanti.it, quindi c'è anche un sito, immagino, associato. Sì, c'è un sito che si sta sviluppando, esattamente. È curato da te e sono un libretto che racconta appunto quello che un po' stiamo raccontando adesso, accompagnato da due CD invece. Sì, tra l'altro il libro che si chiama Comicanti Story, cioè la storia di questi comicanti, che è un neologismo il comicante, una cosa che ho inventato per raccontare questo personaggio che mischia la comicità, la canzone d'autore, l'artista comico, insomma l'arte da una parte teatrale e l'arte musicale dall'altro. Ed è un libro che ho scritto con Enzo Gentile, che è un giornalista musicale noto, io credo. Abbiamo avuto anche ospite in questa trasmissione. E tra l'altro racconta in modo molto più vasto e molto più vario quello che poi si ascolta in qualche modo nei CD, che è un altro tipo di lavoro. Ma tu hai pescato dei vecchi successi di autori, che alcuni sono scomparsi, ricantati però da comici attuali. Esatto, il gioco era quello di cantare con i comicanti di oggi i comicanti di ieri. E tra l'altro il secondo lavoro, cioè l'arte diciamo che noi abbiamo messo in questo prodotto che poi è editoriale e discografico, è di non realizzare delle cover, ma di ricreare degli arrangiamenti, renderli attuali, quindi giocare anche con la musica, gli strumenti, gli arrangiamenti di Fabio Visocchi, i musicisti che sono stati chiamati a fare questo lavoro. Ed è stato un lavoro molto lungo, ci abbiamo messo 3 anni, perché è uscito un primo disco 3 anni fa, adesso è stato ripubblicato con questo. Insomma, diciamo che questo è un po' una sorta di punto e a capo sulla comicità musicale e questo mondo, che a me personalmente affascina molto. Facciamo un salto ancora indietro, parliamo di Franco Nebbia, perché io ho trovato, grazie alla rete, devo dire, su queste cose, meno male, ci dà sempre una mano. E, tra l'altro c'è anche un premio intitolato a Franco Nebbia. Sì, da anni, tra l'altro, da anni. E, detto questo, parliamo un po' del personaggio, poi volevo far sentire un pezzetto di una canzone che, con il testo di Vaime, racconta qualcosa di assolutamente attuale, pur essendo stata scritta nel 61, se non mi sbaglio, nel 62. Sì, era il periodo in cui Franco Nebbia era ancora a Roma e si stava spostando a Milano per aprire il suo Nebbia Club, che è stato fondamentale, come pure il Derby Club in quegli anni. Ecco, allora, il titolo di questa canzone è Borsa Cia Cia Cia, e vi facciamo ascoltare un pezzettino del testo. Attenzione al testo, ovviamente, perché la chiave di tutto è proprio il testo. Ragazza Little Rock che voleva solo Shaq e una parigina très charmante finché non finì l'argent. La mia fidanzata milanese non è donna di pretese, pensa sempre al cia cia cia, non le importa niente dei milioni, vuole solo buone azioni della borsa di Milano. Breda, Eridania, Iri, Mediobanca, Ilva, Snia Viscosa, Falca, Rumianca, Italgas, Italgas, Italgas, Italbi, Italbi, Teti A, Teti A, Teti B, Teti B. Ecco qui lo spirito di raccontare qualcosa assolutamente col sorriso e ballando addirittura un cia cia cia. Devo dire che la fidanzata milanese, che non pretende niente, non vuole soldi, ma vuole solo buone azioni, fa molto ridere. C'era un altro brano molto bello di Franco Nebbia che si chiamava Hai trasferito i capitali in Svizzera, che tra l'altro il testo era di Umberto Eco, E quando poi è uscito il disco, Umberto Eco ha chiesto di non comparire nei crediti del disco. Poi ovviamente la cosa è come dire, è stata risolta simpaticamente, però denota un po' il clima dell'epoca, perché anche allora, insomma, sì, c'era una preoccupazione, se vogliamo, di non suscitare più che altro le ire del potere che allora era al governo, diciamo. Certo. E questo è sempre. Questo è sempre, e però appunto c'è il modo per raccontare le cose, veramente con il sorriso, anche perché... Ma a me viene in mente una canzone, sì, che avevo scritto, che è stata pubblicata qualche anno fa, che è una di quelle tanto più cliccate, ho scoperto dopo, no? Che si chiama Tarantella parlamentare, in cui per non raccontare, per non esplicitare, io a un certo punto nel ritornello dicevo A, B, C, D, F, G, tutti in fila stanno qui, e qui andava bene lo stesso, e quindi me l'ha trasmessa un sacco. Per forza di cose. Allora, c'è prima del traffico una domanda che arriva da Carlo, di Udine, dice, proprio ieri guardavo il film di Bob Foss, Jenny, che parlava del comico Lenny Bruce. Può essere considerato un uomo da cabaret americano? Per l'accezione che io e Relio diamo in questo, sì, libro, sì, perché Lenny Bruce è uno stand-up comedian, e cioè un monologante che da solo affronta il pubblico, e allora Lenny Bruce lo affrontava con la forza del linguaggio, cioè usava un linguaggio tra virgolette volgare o comunque molto forte, aggressivo, che ovviamente contrastava il bon ton dell'epoca. E allora la gente lo andava a vedere per sentire le parolacce, ma lui tra una parolaccia e l'altra diceva delle cose terribilmente vere, e la polizia lo arrestava molto spesso sul palco direttamente proprio per le parolacce. Dopodiché Lenny Bruce è finito, come dire, purtroppo, ma era un maledetto dell'epoca. Ma il film che è uscito poi con Dustin Hoffman, che fa una interpretazione bellissima, racconta molto bene proprio l'epoca che c'era intorno a quello che secondo me è uno dei migliori, è stato uno dei migliori comici o stand-up comedian dell'epoca in America. Grazie Gian Gilberto. Intanto, se avete appunto qualche altra curiosità, 349-238-6666, gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Uno tra i maestri sicuramente è stato Dario Fo, e Dario Fo ha scritto anche delle canzoni, molte. Dario Fo ha scritto nella sua carriera 135 anche oltre canzoni, e quasi tutte ovviamente di argomento satirico, alcune anche bellissime, alcune anche molto melodiche, e le ha scritte moltissime con Enzo Iannacci. In realtà è stata una delle coppie più prolifiche degli anni 60, e è stata anche un po' quella che ha segnato in qualche modo un tipo di cabaret musicale che si contrapponeva al cabaret, se vogliamo, quello un pochino più simpaticamente poco offensivo. Ecco, sono stati uno dei primi che da una parte c'è stato anche Gaber e Simonetta come coppia di autori in quel periodo. È interessante una sorta di identitarietà, se vogliamo, tra il mondo milanese o il mondo della, che potremmo definirlo surreale da una parte e divertito dall'altra, nel modo di raccontare la realtà dell'epoca. Cioè i personaggi stralunati di Iannacci e quindi anche di Dario Fo rappresentavano un po' il mondo degli ultimi, il mondo di quelli più dimenticati. Mi viene in mente il famoso Barbone, il portava scarpe tennis, insomma. Ecco, tu tra l'altro in Comicanti hai anche recuperato una traccia proprio di una canzone scritta da Fo, che Ho visto un re, però reinterpretata da Elio Le Storie Tese. Sì, in questo caso Elio ha accettato, mi fa molto simpaticamente secondo me, di cantare questa cosa, e tra l'altro l'ha fatto, devo dire, in maniera abbastanza insolita, perché era l'ultimo brano del primo CD. Io dovevo assolutamente, come dire, chiudere la lavorazione, erano mesi che aspettavamo, e quindi io continuavo a telefonare a tutti i vari membri della band, ma non riuscivo mai a parlare con Elio, cioè Stefano Bellisario, fino a quando a un certo punto mi telefona Sergio Conforti e dice: ma Gian Gilberti, in realtà Elio l'ha registrata 2 mesi fa a casa sua, è solo che non riesce a mandartela. Guarda, alla fine finalmente l'abbiamo inserita, e devo dire che mi ha fatto molto piacere. Sentiamo com'è venuta. Are you ready? Ah beh sì beh, ah beh sì beh, ho visto un re, se la vi scusè, ho visto un re. Ah beh sì beh, ah beh sì beh, che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re e povero anche il cavallo. Abessibe, abessibe, l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, porca malò, di 32 che lui ce l'ha. Povero re e povero anche il cavallo. Abe sì beh, abe sì beh, ho visto un re, se la vi scusè, ho visto un vescovo, anche lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo e povero anche il sacrista. Abe sì beh, abe sì beh, è il cardinale che gli ha portato via un'abbazia. Oh pover Cristo, di 32 che lui ce n'ha. Povero vescovo e povero anche il sacrista. Ave sì beh, è sempre allegri, bisogna stare che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se no. Ma alla fine è sempre stato così, no? Ecco, dal tempo dei giullari. Dal tempo dei giullari, davvero. Mario scrive: perché la comicità e il cabaret di oggi è sempre più volgare, per nulla sottile o sofisticata? Perché guardi la televisione, no? Perché un certo tipo di televisione, sì, o se vogliamo un certo tipo di televisione commerciale, ormai livella in basso il livello, la qualità della risata. E quindi per cercare, e il tempo televisivo è sempre più ristretto. Una volta i monologhi di Walter Chiari oggi non sarebbero, che duravano sì, minuti, cioè, oggi non sarebbero ammissibili. È molto raro trovare in televisione degli spazi che siano adatti a quel tipo di comicità. È curioso come la televisione proprio degli anni 60 e 70 in questo senso fosse molto più avanti, no? Assolutamente. Perché, sì, c'è stato un periodo in realtà che poi coincide, e questo nel libro con Aurelio lo scriviamo, insomma, con la nascita della televisione commerciale, direi a metà degli anni 80 dal drive-in in poi, e arriva grosso modo ai nostri giorni. Dopodiché è chiaro che se non è la televisione, la comicità o la voglia di raccontare in modo buffo, sbeffeggiando chi in quel momento ha le redini in mano del potere, trova altri spazi, teatrini, locali e poi magari altre televisioni e così via. Alla fine la voglia è sempre quella, insomma. Allora, proprio parlando di questo, mi viene in mente adesso una cosa. Volevo farvi ascoltare un momentino di un pezzo del quartetto Cetra. Ormai non ce n'è più nessuno. È rimasta solo Mina, che non faceva parte del quartetto Cetra, ma con loro aveva cantato questa canzone, che è un centone, ovvero mettere insieme tante canzoni famose dell'epoca, però cambiando il testo quindi raccontando, esatto, un'altra cosa. È una parodia musicale che racconta raccontava l'attualità con delle musiche conosciutissime. E aveva un grande successo. Poi, insomma, il centone è stato anche poi ripreso. Volevo farvi sentire quindi Mina e il quartetto Cetra con La tribuna politica. Dall'ottobre del 59 alle 9 o su per giù, questa mia tribuna eccezionale ha successo qui in TV. Che ci presenti stasera Manzotto, pochi Mazzetti o Consolini. C'è l'onorevole Mina Mazzini, gran segretaria del partito detto PUM. PUM, ai che grande partito! Il PUM, cari teleabbonati, è il partito urlatori moderati. Ciao Mina, submettiti al lavoro, inizia il tuo comizio politico canoro, con un urletto in una canzoncina. Dai Mina, dai Mina. Inizia pure a esporre il tuo programma, se occorre farò il moderator. Tu. Io. Tu lei. Io lui. Tu lei lui. Io lui e te. Tu lei lui voi. Io lui te voi. Tu lei lui voi noi. Sorbitevi il mio comizio. Oggigiorno la salvezza dell'italica canzone non sta certo nell'orletto che si trova lì, Tutoni e neppure si ritrova nell'orletto Villa, nello di nuovo che si trova Claudio Villa, ma ci vuole il giusto punto tra Dallare e Pizzinilla, perché se no prima di Fidenco la canzone andare vengo. Noi daremo il nostro voto l'oggetto del contendere il fatto che lei era un'urlatrice e quindi contro i cantanti dell'epoca, Daniela Pizzi, che aveva un altro modo di cantare, e io credo che il testo fosse straordinario. Tra l'altro si capisce benissimo, Mina a un certo punto dimentica l'elenco dei nomi dei cantanti e lo sta leggendo e scoppia a ridere perché si è dimenticato un pezzetto, però non si capisce, cioè si vede solo nel video. La qualità è altissima. Se pensiamo appunto a quello che vediamo a volte oggi e ci rendiamo conto di come non solo la qualità dei testi o l'inventiva, ma anche la qualità musicale, la perfezione, sì. Stiamo parlando del quartetto vocale forse più popolare italiano dal dopoguerra fino alla fine del Novecento. Ed è stato un fenomeno irripetibile. Tra l'altro non ci sono altri fenomeni simili. Loro devo si collegavano ai Mills Brothers, ma i testi, il modo... Devo dire che gli Oblivion, che abbiamo avuto modo di ospitare anche diverse volte, che hanno recuperato un po' questo e poi trasformandolo in qualcosa di completamente nuovo, un po' ci stanno riuscendo con grande successo grazie proprio alla rete. Quindi io credo che ci sia un po' un ritorno anche della voglia di ascoltare anche concetti e pensieri, no? Ma quello che stavamo dicendo prima sui media, sui modi diversi, la rete in questo aiuta molto. Chi non riesce ad arrivare negli spazi televisivi o nella tribuna, come dire, più popolare, invece sfrutta gli spazi del web, e in questo senso gli artisti, molti artisti anche contro, se vogliamo, riescono ad arrivare tramite YouTube piuttosto che i loro siti o roba del genere, insomma. E questo è interessante. Penso la rete un po' come il vecchio cabaret, il vecchio luogo, no? Dove sì, si esibiva. Tenendo presente che una volta il cabaret era un luogo piccolissimo. Sì. Cioè noi siamo a Radio 24, è la sede del Sole 24 Ore, e di fronte a noi c'è il Derby, che era stata la culla del cabaret milanese e anche italiano, se vogliamo. E il Derby, come molti altri locali francesi di 100 anni prima, era un luogo dove ci stavano un centinaio di persone. E quindi la piazza mediatica è in rapporto a questo, è estremamente più vasta. Però la differenza è che quando hai poche persone davanti, lo dico anche come artista, riesci da una parte molto più difficile, ma dall'altra riesci a comunicare immediatamente. Cioè sì. Li guardi proprio in faccia e se vedi che si annoiano, non c'è speranza, no. Devi inventarti qualcosa. E qualcosa per forza, altrimenti poi la seconda serata non può andare bene, no. Come la prima, è impossibile. Continueremo con Gian Gilberto Monti dopo il GR, vi ricordo ancora il numero 349-238-6666 per i vostri sms. Invece se volete prenotarvi per giocare più tardi verso le 11.40 con... Francesco Guardi in 24 minuti per avere il catalogo e i biglietti per la mostra a Venezia, 800 24 00 24. Il riposo del guerriero. Le 11.05 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini nel riposo del guerriero qua su Radio 24. Stiamo parlando di comicità, di quella comicità, di quel cabaret, ovvero la comicità cantata, perché così cominciò anche quei luoghi, perché cabaret poi è legato anche al luogo dove in qualche modo si faceva politica, comunque si parlava di problemi sociali senza dover incorrere alle regole o alle censure. E poi chiaramente abbiamo raccontato anche di come la storia dell'Italia sia stata fatta attraverso le canzoni. Le canzoni che raccontano qualcosa, mentre non le canzoni in generale, sembrano della canzone comica. Sono arrivati molti messaggi che citano Benigni, Gian Gilberto. Beh, Benigni è il tipico esempio di clown teatrale. E se vogliamo, Benigni, come anche Carlo Verdone, nasce come il lavoro che fanno loro, nasce dal teatro d'avanguardia. Stiamo parlando di Roma negli anni 70, quando la sperimentazione teatrale si sposa poi con altri tipi di comicità, dove il punto di vista cambia ed è poi quella che genera la risata, cioè data una situazione il punto di vista del comico è completamente diverso. Benigni è un vero clown teatrale. E da una parte nasce con un monologo, il famoso Cioni Mario, scritto da Bertolucci, e si sperimenta in questo luogo che poi era un teatrino cabaret, perché poi il teatro cabaret è in Italia, se vogliamo, quello più vicino ai cabaret di una volta. Sto parlando della Francia di quel periodo, fine 800 e tutto il resto. C'è la tradizione di avere da una parte un pubblico molto attento, molto vicino alla pedana dove agisce l'artista, e dall'altra la necessità di raccontare l'attualità, la vita circostante, però andando anche sulla sulla quotidianità e quindi sbeffeggiando da una parte il costume che si sta vivendo e dall'altra anche la società e chi ci comanda, se vogliamo. E quindi Benigni in qualche modo usa la tecnica clownesca, che è quella del bambino, e cioè lui è proprio infantile quando entra, quando arriva proprio alle parti basse, come si dice, e però lo fa in modo non volgare, tant'è vero che le sue prime canzoni, perché Benigni nasce anche proprio come cantante cabarettista, L'inno al corpo sciolto per esempio, è piuttosto che le canzoni La marcia degli incazzati, cioè queste cose che suscitano una sono stralunate, quindi è uno straniamento dello spettatore che non capisce, spiazza, perché da una parte è sicuramente un adulto che parla, ma lo parla con un linguaggio infantile, ma proprio perché è fanciullesco non offende, non è volgare, e in questo modo racconta proprio quello che stiamo vivendo, fino ad arrivare ovviamente con gli ultimi periodi, gli ultimi anni, a toccare i testi più importanti, da Dante fino alla Costituzione. Però lo fa sempre in modo clownesco, e questo è grande. Se vogliamo, l'unico esempio, diciamo, non italiano che mi viene in mente da accoppiare a Benigni è Charlie Chaplin. Ecco, senti, tanti messaggi fanno un po' un paragone fra quello che era la comicità di un po' di anni fa, e fino a 20, no? 20 anni fa, e quella di oggi. E adesso noi discutevamo anche fuori onda del fatto che forse molti comici oggi sono nati dalla televisione, quindi non hanno l'esperienza, cioè non sono nati dal teatro. Cambia tutto. Quindi fa cambia tutto, perché il comico quindi l'attore comico, l'artista comico, che quindi non ha solamente l'arma della comicità, quindi della parola, ma la gestualità, il movimento, il corpo, e anche la musica, anche le azioni, e quindi è per quello che dico il clown, che è l'artista completo, è sicuramente qualcosa che, nascendo dal piccolo palcoscenico, arriva in un certo modo e si esprime in un certo modo. La televisione, proprio perché nasce con dei tempi strettissimi e quindi ha bisogno di tormentoni e personaggi. Questo significa che quando un comico entra in scena, prima di, come dire, suscitare la risata, possono passare anche 10, 20, 30 secondi, dei minuti, perché deve creare magari la situazione comica. Da qui in poi, per esempio, Dario Fo è un comico di situazione, non di battuta, perché nei suoi monologhi, nei suoi personaggi, come dire, interpretava, raffigurava una situazione, e a quel punto poi qualunque cosa dica l'artista la gente ride, perché la situazione è comica. Sì. Invece il personaggio televisivo, e quindi la superficialità, cioè l'immagine, arriva in due modi: o ti fa ridere subito perché è vestito in modo buffo, buffonesco, cialtronesco, e mi vengono in mente, non so, i personaggi del Bagaglino per esempio, oppure dice la battuta o a volte purtroppo la battutaccia o il tormentone, e quindi i personaggi del drive-in erano famosi perché avevano i tormentoni, che poi non è una cosa vecchia come il mondo, lo usavano anche Cocchi e Renato. Poi però i tempi televisivi si fanno sempre più stretti. La risata deve arrivare in fretta e quindi deve essere più facile, di conseguenza non è più intelligente, nel senso che non suscita nemmeno la necessità da parte dell'ascoltatore di pensare, è una sorta di ascolto passivo, e in questo è misera. Ecco, senti, il parlare di personaggi, no? La televisione deve giocare sul cabaret fatto dei personaggi. Abbiamo ancora 5 minuti prima di doverti salutare. Ma allora mi viene in mente chi faceva personaggi in televisione? Anche volevo capire le differenze, che è Franca Valeri. Lei faceva dei personaggi in televisione, ma con una comicità completamente diversa. Esatto, perché Franca Valeri aveva il tempo di esprimere il personaggio, c'era il tempo di capire dove eravamo. Se pensiamo ai personaggi famosi come la signora Ceccioni oppure la signorina Snob, che sono personaggi che identificano una parte della cultura del paese o del tempo in cui viveva Franca Valeri al momento in cui interpretava quei personaggi, erano straordinari, perché da una parte la gente non capiva immediatamente di cosa si stava parlando. È chiaro che poi col tempo la televisione, stiamo parlando degli anni 60, aiutava in questo con la scenografia, con lo sottofondo musicale, quindi ormai il personaggio era noto, era conosciuto, e appena entrava in scena la gente rideva, sì, perché lo conosceva già in qualche modo. È come il cantante famoso che alla fine del suo concerto nei bis canta la canzone più popolare che ha scritto, e così, certo, via. E in questo, se vogliamo, Franca Valeri è una delle, a parte della comicità femminile straordinaria, perché ecco, questo è importante, la clownerie non è femminile, purtroppo, nasce proprio come clowneria maschile. Quando stavate parlando nella trasmissione scorsa, Arturo Bracchetti parlava di Joseph Grimaldi, sì. Cioè Giuseppe Grimaldi, in realtà Joseph Grimaldi era il figlio di Giuseppe Grimaldi e bla bla bla. La clowneria iniziava in teatro, e in teatro era maschile. Ma perché arrivava in qualche modo da questo mondo aggressivo, se vogliamo anche dalla strada, dove non era accettabile per il tempo in cui si viveva una donna che si comportasse in quel modo. Naturalmente la società si evolve e a quel punto Franca Valeri in Italia è una forse delle prime che racconta a suo modo, e secondo me straordinariamente, la comicità dal punto di vista della donna. Ecco, no, facciamo sentire questo pezzetto di monologo di Franca Valeri, che credo che faccia un insieme tra la signora Snob e la Ceccioni, giusto? Eccola qua. Guardi, io sono milanese per nascita e per getto, che è raro, vero? Perché tanti nascono magari in un posto e poi prendono sul modo di fare d'un altro. E di conseguenza io ho accettato tutto dalla modernità imperante, perché a me, per dire, non mi fa fare un minestrone a mano neanche se mi ammazza, guardi, preconfezionato. Io leggo il rotocalco proprio nell'ora esatta che la mia mamma lavava i piatti, che mi possono vedere tutti sul terrazzino della cucina anche se nevica, perché così non c'è equivoco. Io ho il lavastoviglie, è un monito al quartiere. E allora? Mi fa molto ridere che lei usi il maschile. Dovrò chiedere alla Dragotto il lavastoviglie, non la lavastoviglie. Beh, dicevano che l'elettrodomestico è maschile. La leggenda racconta che Franca Valeri avesse inventato questi personaggi proprio nella frequentazione che le aveva da ragazza, insomma, nei salotti bene milanesi. È in parte sicuramente vero, però non dobbiamo dimenticare che poi c'è anche una bravura negli anni. Stiamo parlando di una signora che ha inventato il cabaret in Italia, perché poi insieme a Capriola e Bonucci il teatro dei Gobbi, sì, ha lanciato di fatto il primo esempio di cabaret, stiamo parlando di cabaret satirico, di comicità di quel tipo in Italia, e tra l'altro debuttando in Francia. Quindi stiamo parlando di una premiera assoluta, se vogliamo, di questo tipo di comicità. Senti, allora, siccome dobbiamo salutarti, purtroppo, però ti ringraziamo, insomma, poi avremo modo nel riposo del guerriero, ogni tanto questi temi tornano, perché piacciono a me, ma sono anche molto graditi soprattutto agli ascoltatori. Allora, comicanti.it, beh, abbiamo parlato prima del vostro libro, nel tuo con Flavio Aurelio, La vera storia del cabaret, dall'uomo delle taverne alla Beat Generation, poi però appunto uscirà anche comicanti.it, questo doppio CD con, sì, questo un libro. Un vero e proprio cofanetto, sì, dove da una parte raccontiamo appunto la storia insieme a Enzo Gentile, la storia della comicità musicale in Italia, dall'altro questi due CD che sono dei duetti che io ho realizzato insieme a noti artisti comici. Tra l'altro devo dire solo una cosa velocissima, sì, una parte degli incassi viene devoluto a Medici Senza Frontiere, questa è una cosa che mi sembra bello dirlo. E poi ci sarà comunque al Teatro Filodrammatici, avremo una possibilità di raccontare e parlare di questo. Abbiamo ideato 3 talk show musicali che vanno in scena dal 25 gennaio, sono in stagione al Teatro Filodrammatici. Abbiamo 3 ospiti d'eccezione che tengono le serate insieme a me. Il primo è Vito Molinari, noto regista televisivo. Il secondo è Mario Lavezzi, che tra l'altro è conosciuto al di là della sua attività canora come grande studioso del mondo degli anni 60, del derby, amico di Teo Teocoli, quel mondo lì, diciamo, e l'ultimo è proprio Enzo Gentile. E in queste 3 occasioni avremo degli ospiti che sono poi quelli che hanno partecipato al disco in parte, e anche altri come Roberto Recchia, per esempio, che sarà con noi nel debutto del 25 gennaio. Gian Gilberto, hai il tuo sito, vorremmo dire, così se qualcuno avesse qualche curiosità può scriverti. Beh, quello è facile, perché è giangilbertomonti.it, cioè per il più semplice. È il nome possibile, che è un po' complesso, Gian Gilberto. E ecco, quello non ci posso fare allora, nulla. Benissimo, così ce lo ricordiamo. Grazie ancora, aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Senti chi parla. Parliamo noi questa domenica, Francesca Dragotto, ciao! Buongiorno, beh, parliamo molto poco in verità. Esatto, perché a causa della par condicio o par condizio che sia, adesso sentiremo da te, non possiamo parlare molto, non possiamo sbilanciarci in nessun modo. Esatto, quindi ci concediamo piccole storie di sughi e di pasticci di maccheroni e spieghiamo che rapporto c'è tra par condicio e par condizio, perché alcuni ritengono erroneamente che la forma più corretta sia condizio. Ora, partiamo dal significato che nell'italiano dell'uso ha la forma par condicio. Sappiamo che in senso specialistico è utilizzata per riferirsi a situazioni debitorie, però nell'accezione in cui lo usiamo un po' tutti, quindi un'accezione più ampia e comune, accezione che si è diffusa attraverso il linguaggio giornalistico, indica la garanzia di pari opportunità di accesso ai mezzi di comunicazione. Allora, condicio, da dove viene? Viene da condicio condicionis, parola che si forma dal verbo condico, che significa accordarsi su qualcosa, stabilire insieme. Condicio quindi cosa indica? La condizione, lo stato, la situazione, ma anche il partito di matrimonio, per cui in latino dire condicionem querere equivaleva a dire cercare un buon partito per il proprio figlio o per la propria figlia. Ora, erroneamente il termine è sentito da molti come una forma poco nobile di condizio, condizionis, la cui forma è stata continuata dall'italiano, perché noi non diciamo condicione, diciamo condizione, però non è così, perché condizio si forma da un altro verbo, quindi non da condico ma da condio, condire appunto, condire, aromatizzare, mettere in salamoia, rendere gustoso, e quindi nelle attestazioni di cui siamo in possesso noi troviamo condizio per indicare la conserva, quindi la marmellata di frutti, o in senso più generico la preparazione dei cibi. Quindi bisogna dire par condicio e non par condizio, una volta per tutte, adesso lo sappiamo, grazie. Sì, una volta per tutte. E la cosa interessante è che condizio, quindi quello che stiamo scartando, è parte di quel latino che possiamo chiamare il latino di cucina. Questo perché? Perché poiché i cuochi parlavano mescolando delle varietà, il concetto di fondo è sempre lo stesso: non si venivano a rispettare i canoni prestabiliti, quindi peggio, si venivano a realizzare dei pastiche simili a quelli che si facevano, che si fanno oggi in cucina, e quindi per indicare il modo in cui i cuochi parlavano si ricorreva, almeno a partire dal Rinascimento, alla formula latino maccheronico. Quindi il link tra le due informazioni che ci tenevo a dare ha a che fare con la cucina, perché nel primo caso abbiamo un condizio che, a dispetto delle nostre aspettative, rimanda appunto all'idea della confettura, del condimento, dell'aromatizzazione, e un latino maccheronico che invece rimanda ai maccheroni, proprio perché il latino parlato dai cuochi somigliava ad un rimescolamento di cose differenti. Allora, buon appetito Francesca Dragotto, grazie, e a questo punto par condizio a tutti, anzi condicio, e non sbagliamo più. Sì, buona domenica. Giochi e videogiochi. E partiamo subito con i giochi. Andrea Ligabue, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica Stefano e buona domenica a tutti voi. Allora, immagino che durante le vacanze di Natale le famiglie abbiano giocato, almeno me lo auguro, anche grazie ai nostri consigli, ma adesso bisogna andare avanti. Certamente, diciamo, di giochi ce ne sono tanti, ne escono di nuovi, ma ci sono anche giochi usciti l'anno precedente che sono convinto che la maggior parte delle famiglie non conosca ancora. Ecco, allora parliamo di qualcuno di questi giochi. Sì, allora, un gioco che mi ha colpito e che è interessante anche perché è una produzione praticamente totalmente italiana è Libertalia. Libertalia è un gioco di Paolo Mori, che è un autore di Parma che a me piace moltissimo, ed è stato prodotto da Asterion Press in Italia in collaborazione con Asmodee, che è una ditta francese. È un gioco che ripercorre praticamente un'avventura di un gruppo di pirati su questa nave durante, diciamo, tre missioni. E il gioco si divide in diverse fasi. C'è una prima fase in cui, diciamo, i giocatori si guadagnano giorno dopo giorno il bottino, e diciamo questo per tre missioni. Ogni missione sono sei giorni, e la cosa carina di questo gioco è che tutti i giocatori hanno in mano all'inizio della partita le medesime carte, quindi diciamo c'è un equilibrio, e ogni carta rappresenta un personaggio di questa nave di pirati. Segretamente i giocatori scelgono che personaggio giocare, vengono tutti rivelati contemporaneamente e poi vengono ordinati in base al rango dei pirati, e agiscono in base al loro rango, quindi diciamo il personaggio di rango maggiore sarà il primo ad accaparrarsi il tesoro. La cosa simpatica è che oltre al rango tutti i personaggi hanno poteri diversi che possono alterare, diciamo, quelle che sono le meccaniche di gioco. Quindi la strategia è riuscire a capire il modo migliore per giocare, l'ordine migliore per giocare i propri personaggi. E tutti i giocatori hanno 9 carte, ne giocano solo 6 nella prima giornata e gliene rimangono 3 che possono essere diverse da giocatore a giocatore. Nella seconda giornata vengono date altre 6 carte e nella terza altre 6. In questo modo, diciamo, dopo la prima manche, nelle manche successive i giocatori possono avere una composizione di mazzo diverso. Il gioco è semplice, si può giocare fino a 6 persone e dà una, diciamo, profondità strategica molto interessante. Ecco, è quasi, cioè, quasi un gioco di ruolo per certi aspetti, quindi. Sì, diciamo che il ruolo è che questi personaggi sono effettivamente molto ben caratterizzati, hanno poteri diversi che interagiscono anche l'uno con l'altro. Quindi, diciamo, magari in una prima partita si può giocare in maniera un po' superficiale, dopo un po' si imparano a conoscere i personaggi. Esatto, cioè più si conoscono i personaggi, le loro forze, le loro debolezze, e più quindi è più facile, diciamo, vincere. Quindi è un gioco che mano a mano acquisisce anche, cioè acquisendo conoscenza si acquisisce anche la capacità di migliorare la propria strategia di gioco. Quindi è interessante, esatto, da quel punto di vista. Pur non essendo un gioco complesso, quindi, diciamo, può essere giocato anche da, diciamo, giocatori occasionali e anche, diciamo, da bambini, secondo me, a partire già dagli 8-10 anni. Certo, ed è bello anche il fatto che tutti si parta nello stesso modo, no? E quindi a tutti viene data la stessa chance e poi le capacità devono emergere man mano che si va avanti. Senti, invece, parlando di giochi in generale, una delle dei gettoni, per usare un termine delicato al gioco, che tu puoi gettare sul tavolo è quello di invitare nostri ascoltatori con le famiglie a insegnare ai loro figli e anche loro stessi, perché no, a cambiare spesso i giochi, cioè a giocare tanti giochi diversi. Sì, esatto, io sono convinto che, diciamo, che esista il gioco adatto per ogni persona e che ci sono comunque tanti giochi, e il provare tanti giochi diversi, oltre che a giocare in maniera ripetuta con un gioco a cui si è appassionati, insegni molto, insegna la capacità di capire regole diverse, vedere strategie diverse e soprattutto, diciamo, accresce la cultura ludica della famiglia, dell'adulto e del bambino. Io dico sempre che è un peccato che in Italia le persone conoscano un adulto 4-5 giochi, cioè io penso che i miei figli 4-5 giochi li giocano ogni mese, 4-5 giochi diversi, e secondo me, diciamo, è molto importante. I giochi sono veramente tanti e io do un suggerimento a tutti di andare anche fuori dai centri commerciali, andare nei negozi specializzati e cercare dei giochi particolari, perché ci sono veramente dei prodotti di altissimo livello fatti da autori professionisti che vale la pena provare a conoscere. Infatti è proprio così, l'abbiamo scoperto anche grazie alle tue indicazioni. Grazie Andrea Ligabue, ci sentiamo la settimana prossima. Ok, grazie mille Stefano, buona giornata. Grazie ancora, e a questo punto è arrivato il momento di parlare di videogiochi e cominciamo parlando di Epic Mickey 2. È un gioco disponibile per tutte le console e che per essere portato a termine richiede la presenza di 2 giocatori che collaborino insieme. Certo, sarà possibile anche giocare da soli, ma in 2 sarà sicuramente molto meglio. Genitori e figli, dunque, state vicini e iniziate l'avventura. Il seguito di avvenimenti accaduti anni fa. Non molto tempo fa, un topo coraggioso ma un po' birichino scoprì un mondo che avevo creato per i cartoni dimenticati. Il topo affrontò molte sfide e dovette fare delle scelte, ma riuscì a salvare Rifiutolandia dalla distruzione con l'aiuto di un nuovo amico, Oswald, il coniglio fortunato. Ma Rifiutolandia, il luogo dove vivono tutti i cartoni Disney dimenticati, è nuovamente in pericolo. E voilà! Ho un'altra opportunità! Riparerò gli errori miei, per questo sono qua! Quella sete di potere ormai non conta più! E voglio salvare la città che sta cadendo giù! Mi serve il vostro appoggio, non voglio più ingannarvi! Ma ci sono grossi guai, amici, devo avvisarvi! Io so qual è la retta via ed ho per noi la migliore strategia. Attenti a dove andate per l'incolumità. Esseri malvagi stanno invadendo la città. Solo grazie al terremoto c'è un po' di tempo in più. E quando arriveranno qui noi non cadremo giù. Voglio che tutti voi lottiate insieme a me. Dobbiamo stare uniti, è chiaro il perché. Chi è con me? Sto chiedendo aiuto a voi. Ditemi chi è il migliore degli noi. Su dai, orsù, il tempo non c'è più. Dov'è l'eroe che cerco? Sei forse tu, o tu, o tu, o tu? Doppiato egregiamente dalle voci ufficiali di Disney Italia, Epic Mickey 2 avrà come protagonista, oltre al coniglio Fortunato Oswald, rigorosamente in bianco e nero, anche un magico topolino dotato di due pennelli molto speciali. Col pennello in mano, Topolino si accorse che le stelle vere e proprie aspettavano di prender vita. Mancava soltanto la pittura per farle danzare ancora. Uno ha la capacità di creare le cose, l'altro di farle sparire. E usando la combinazione giusta di questi si riuscirà a salvare Rifiutolandia. La cosa interessante del gioco è che ci si troverà ad affrontare situazioni diverse in base alle scelte che si faranno, ossia usare un pennello piuttosto che l'altro. E questo rende Epic Mickey 2 davvero interessante e meno prevedibile. Inoltre la grafica curatissima del gioco rende questo titolo appetibile sia da un pubblico adulto che ricorderà e rivedrà i vecchi classici dell'animazione disneyana, sia dai giocatori giovanissimi ormai abituati ai colori e alle animazioni tridimensionali. Insomma, un bel titolo per trascorrere insieme queste feste e per inaugurare, se mai l'abbiate acquistato, il vostro nuovo televisore 3D, visto che si può scegliere di giocare anche con questa opzione attivata. Trovandosi a casa, Topolino avrebbe dovuto sentirsi al sicuro. Guardando il pennello, si chiese se il solvente potesse aiutarlo a trovare il vero motivo del suo disagio. Il riposo del guerriero. Tanto sono arrivate molte domande su Facebook, grazie, abbiamo cercato di rispondere a tutti e anche ancora sms sul mondo del cabaret, il vero cabaret del quale abbiamo discusso oggi, ovvero la canzone comica. E c'è un messaggio che dice: ma Giorgio Gaber può essere considerato un uomo del cabaret? Assolutamente sì, direi proprio uno degli uomini che hanno rappresentato questo mondo. Non l'abbiamo citato, ma perché il tempo poi alla fine è quello che è, come sempre, è il momento però adesso di andare al cabaret a bere un bicchiere di vino e magari mangiarci anche qualcosa. Il gastronauta. Ciao Davide Paolini, buona domenica. Buona domenica a tutti. A me mancano ai posti proprio dei veri cabaret, ormai in Italia non so quanti ce ne siano, ma penso che si possano contare sulle dito di una mano. Cioè i posti dove si va ad ascoltare la musica comica, le canzoni comiche, intanto si beve un buon vino e si mangiucchia anche qualcosa. Ma sai, mi veniva da pensare che dalle mie parti in Romagna, e forse in maniera completamente sbagliata, cabaret è anche quello che porti, il vassoio che porta... Ma nasce da lì, la parola nasce proprio da quello, dal vassoio che porta i bicchieri del vino che si beve e poi anche da mangiare. Quindi l'analogia tra cabaret e cibo è molto stretta, questo lo dimostra. Come appena si parla di cabaret mi viene in mente il riso. Sì. Il riso e devo dire che c'è una... Ci sono delle diatribe, potresti benissimo lanciare un sondaggio, secondo me. Senti, sul riso e sul risotto? Quale riso usare per il risotto? Vialone nano oppure Carnaroli? Vedrai cosa succede, succederà la rivoluzione, perché ognuno ha la soluzione che ritiene la più... Ma io ho un'altra domanda, guarda, il risotto deve essere un po' bagnato oppure i chicchi devono essere asciutti? Ma guarda, quando si dice che è sull'onda, il fatto che si dica sull'onda vuol dire che deve essere un po' bagnato, perché l'onda richiama l'acqua, sì, richiama il mare, certo. Quindi sicuramente. Ma l'altra grande diatriba è sulla mantecatura, quanti secondi o quanti minuti, oppure col burro o con l'olio. Vabbè, ma col burro il risotto, ma questa non è una domanda. Un'ultima tendenza. Vabbè. Molti che, ad esempio, per le allergie ad altro, sì, ho capito, sono stati costretti a usare l'olio, però a molti cuochi seguono questa tendenza, quindi sicuramente si può andare in questa... Senti, non so il tuo pensiero, guarda, in questo senso, Davide, però proprio al supermercato qualche giorno fa ho visto una confezione di brioche con tipo senza zucchero, senza uova, senza latte, senza niente. E io allora ho detto, ridendo, dico, beh, anche senza gusto, poi magari mi sbaglio, però alla fine... Le chiamerei le brioche nessuno. Perché sicuramente... Cioè, se una croissant tu togli il burro, va via tutto il sapore. Se una cotoletta alla milanese, se tu la cuoci con l'olio, passa un po' di poesia. Per quello pensavo la stessa cosa con il risotto, ecco. Ma anch'io penso la stessa cosa. Ah, va bene, okay. Penso anch'io la stessa cosa, però è una tendenza che bisogna riportare, perché sì. Io anni fa ho fatto un libro dal riso al risotto. Ho interpellato 30 cuochi anche di notevole livello. Ebbene, a parte le discordanze sul vialone nano o sul cannelloni, a parte le discordanze sui minuti o i secondi di mantecatura, c'era anche questo discorso di olio e burro, e c'erano alcuni sudisti che preferivano l'olio al burro. Olio rigorosamente d'oliva, immagino, a questo punto, o anche su lì ci si confronta? Per carità. Se tu metti un olio di semi, sicuramente sulla mantecatura del risotto ottieni la brioche in vendita di cui tu parlavi. Siamo al disastro, insomma. Senti, guardando uno spettacolo invece di cabaret, proprio una sera, qualcosa da sorseggiare mentre stai ridendo e ti stai godendo la serata. Tu... Ma io credo che siano le bollicine, immediatamente, ecco, le bollicine. Insomma, quello. Se viene le bollicine, ti dirò che mentre stai guardando così, forse... una scaglia di parmigiano reggiano e una bollicina la vedo molto bene. Ecco, va bene. Oppure, anche se è uno spettacolo molto hard dal punto di vista della risata, anche una bella fetta di salame. Ecco, che ci sta, certo. Quindi questo, ecco, è un consiglio come tendenza nuova per cercare di riaprire quei locali, i vecchi cabaret che ormai stanno chiudendo da molti anni, ce ne sono veramente pochi, e farli rivivere, perché secondo me sarebbe una bella rinascita, e anche seguita, ecco, da un grande pubblico. Dimmi. Il consiglio è di non usare i finger food, quelli lasciamoli alle robe sofisticate, non al cabaret. Esatto, ripeschiamoli dal passato, come abbiamo già detto, anche per quanto riguarda la cucina e anche per quanto riguarda la risata. Grazie Davide Paolini. A domenica. A domenica prossima e sabato, per quanto riguarda te, con il Gastronauta, oltre le varie pillole in giro per la settimana. È il momento per portarsi a casa il catalogo della mostra di Francesco Guardi e anche il biglietto d'ingresso. Francesco Guardi in 24 minuti. Per riuscire nell'impresa dovete associare la canzone che vi faccio ascoltare al titolo di una delle opere di Francesco Guardi, fra l'altro grande successo per questa mostra, con la collaborazione di 24 ore Cultura, perché è stata prorogata fino al 17 febbraio, avrebbe dovuto già finire, invece no, si va avanti. Vi faccio ascoltare, prima della canzone vi do il numero 800 24 00 24. Ecco la canzone alla quale dovete associare il titolo di un'opera di Francesco Guardi. E poi di colpo eccomi qua. Sarei arrivato io in vetta al sogno mio, com'è lontano ieri. E poi più in alto è ancora su, fino a sfiorare Dio. E gli domando io, Signore, perché mi trovo qui, se non conosco amore. Sboccia un fiore malgrado nessuno lo annaffierà, mentre la la fiera in segreto a morire andrà. Il poeta si strugge al ricordo di una poesia. Questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia, che una madre si arrende e un bambino non nascerà, che potremmo restare abbracciati all'eternità. E poi... E questa è la canzone che dovevo riportarvi al titolo di un'opera di Francesco Guardi, Renato Zero con più, su Francesca da Treviso. Buona domenica. Buona domenica. Allora, Francesca, c'è un'opera di Francesco Guardi che ha un titolo molto breve e che riguarda qualcosa che ha a che fare con questa canzone. È un oggetto in particolare. Cosa può essere? Io pensavo al campanile di San Marco. Perché va in su, giustamente, in su. Hai ragione. E non è il campanile di San Marco, però, Francesca, mi dispiace. Niente, allora. Grazie però, ciao, ciao. Grazie. Elena da Brescia, buona domenica. Buona domenica. Ciao, Elena. Allora, un oggetto che ha a che fare con questa canzone, è un oggetto che Francesco Guardi ha dipinto. Sai, lui dipingeva piazze. Guarda età. Ah, che bella domanda che mi fai, sai che non lo so. Vabbè. La parola è una sola. Ecco, Io mi lancio, comunque volevo dire che sono per il Vierone Nano. Riguardo a Paolini. Ecco, quanto riguarda il tipo di riso. Va bene. Sì. Va bene, allora cambierò, io so il Carnaroli, però adesso cambio. Sì. La mongolfiera. La mongolfiera. E la mongolfiera è, quindi Elena ti porti a casa i biglietti d'ingresso e anche il catalogo della mostra. Io spero che tu riesca ad andarci, ma se non riesci guardi almeno il catalogo. Ecco, grazie ancora, ciao. Buona domenica, 800 24 00 24, vi faccio sentire adesso la prossima canzone che ha a che fare con il prossimo quadro di Francesco Guardi. E questa la dovete conoscere per forza, All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts really Dai, posate i coltelli, devo entrare per forza, sennò vado troppo in ritardo sul traffico. So che non si può toccare Stairway to Heaven di Led Zeppelin. Ci sono gli aggiornamenti sul traffico e poi tocca a voi. Allora, Simone da Monza, buongiorno, buona domenica. Simone, sì, buongiorno. Eccoti lì. Allora, Simone, prima di darmi qualunque risposta, cerco di darti una mano. Allora, grazie. La canzone che abbiamo ascoltato la conoscerai, spero. Sì. Appunto, infatti, che è Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Uh-huh. E il tradotto, il titolo sarebbe, lo sai? Se lo dovessimo tradurre, Scala per il Paradiso. Eccolo lì, allora sì, scalinata, Scala per il Paradiso. Allora, scalinata, Stairway proprio, vabbè. Comunque sia, come te la puoi immaginare una scala per il paradiso? Come te la puoi immaginare? Se tu dovessi disegnarla, che colore useresti, per esempio? Azzurra. Perché avete... cioè, dimentica la pubblicità. Cioè, tu non pensare alla pubblicità. Ma come, qual è il materiale più prezioso per fare una scala che possa andare su in paradiso? Dorata, ecco. Quindi la scala com'è? È quindi una scala di che colore? D'oro, ecco, la scala d'oro. Dov'è che può essere questa scala d'oro? Pensando a Francesco Guardi, pittore che ha raccontato la sua Venezia attraverso le sue opere, quindi lui disegnava luoghi, piazze, posti della quotidianità. Dov'è che una scala d'oro potrebbe essere a Venezia? In quale palazzo? E di più non posso aiutarti, Simone, perché ti ho detto quasi tutto. Quindi, la scala d'oro dove di... Pensavo Piazza San Marco verso la Chiesa dell'Orologio. Ma secondo te ci può essere una scala d'oro in Piazza San Marco? L'hai mai vista? Adesso parliamo, Simone, io e te. In Piazza San Marco non c'è una scala. Giusto? La scala è in un palazzo. È un palazzo che magari ha a che fare anche con quella piazza, ma non è nella piazza. Che rabbia, Simone, devo salutarti. Io ho fatto di tutto. Devi ammettere che ho fatto di tutto, Hai fatto di tutto. Oh, grazie, almeno questo. Ciao, Simone, mi dispiace. Buona domenica. Ma che rabbia, era arrivato la soluzione. Beatrice, dalla provincia di Venezia. Buongiorno. Buongiorno, tu la sai la risposta, quindi me la devi dare. Spero. È la scala d'oro in Palazzo Ducale. Che è in Piazza San Marco, ma quello è un altro discorso. La scala d'oro è da un'altra parte. Va bene, dai, per te allora i biglietti d'ingresso e anche il catalogo della mostra. Senti, Beatrice, magari chiama Simone e invitalo, andate a vederla insieme la mostra, perché se lo merita. E grazie a lui che hai risposto tu. Magari si può fare. Allora cercheremo anche di aggiungere questo elemento. Buona domenica, ciao. 800 24 00 24. E adesso un'altra canzone. Vi aiuto, se no è un po' difficile, però ascoltatela bene, è una bella vecchia canzone di Claudio Baglioni. Ho girato e rigirato senza sapere dove andare, ed ho cenato a prezzo fisso seduto accanto ad un dolore. Tu come stai? Stai, tu come stai? E mi fanno compagnia 40 amiche, le mie carte, anche il mio cane si fa forte e abbaia la malinconia. Tu come stai? Tu come stai? Tu come vivi, come ti trovi, chi viene a prenderti, chi ti apre lo sportello, chi segue ogni tuo passo, chi ti telefona e ti domanda. come stai, Alessandra, da Milano? Sì. Ciao. Come stai? Bene. Bene. Allora, quando, insomma, questa canzone è legata ovviamente a una delle tante opere di Guardi, e beh, lui a un certo punto ha raffigurato in questo suo quadro il molo con una libreria verso una chiesa specifica, una chiesa famosa anche a Venezia, una chiesa che ha a che fare con questa canzone che è Tu come stai di Tadeo Baglioni. Quale chiesa può essere? Alessandra. Il più non posso dirti, eh. Dove sei? Su internet? Sì. Dove sei? Piazza San Marco verso la chiesa e l'orologio. No, perché è una chiesa e il nome di questa chiesa ha a che fare con la canzone che abbiamo appena ascoltato. Sì. E la risposta non è quella giusta, quindi ti devo salutare, Alessandra. Grazie, ciao. Buona domenica. Anche a te. Ciao. Antonio da Roma. Antonio. Pronto? Si sta consultando con sua moglie, la sua fidanzata, non so chi sia. Antonio, eccoti. Chi era tua moglie? Pronto? Eccomi qua. Ho chiesto, sì, Antonio, se fosse tua moglie la voce. Se fosse di tua moglie. Sottofondo. Immaginavo, perché lei stava per darti un consiglio, giusto? Ma no. Parlava, no. Di... Ah, parlavi d'altro, va bene. Allora, il quadro del... Il quadro di Francesco Guardi al quale ci riferiamo si intitola Il molo con la libreria verso la chiesa. Quale chiesa in particolare? È una chiesa che ha a che fare con la canzone che abbiamo ascoltato. La Basilica della Salute? È proprio quella, il molo della libreria verso la Chiesa della Salute. E anche per te, biglietto d'ingresso e catalogo della moda. Sei stato mai a Venezia con tua moglie? Sì. Perché va bene che sei a Roma, però Roma la vedi tutti i giorni. Ecco, quindi. Certo. Riportacela quindi. È un'occasione. Eccolo lì, bravo. C'è anche il treno veloce ormai. Grazie, ecco. Antonio. Ciao. Grazie. Buona domenica. Abbiamo ancora qualche minuto per un'altra canzone. Il salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge la sfortuna, e le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su Via della Povertà, Cenerentola sembra così facile. Ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va è Cenerentola che spazza la strada in Via della Povertà. Eccolo qui, Fabrizio De André di Via della Povertà. C'è Davide da Roma. Davide. Sì, buongiorno, salve. Eccoci qua. Allora, questo lungo titolo di quest'opera di Francesco Guardi ovviamente ha a che fare con questa canzone. L'inizio del titolo parla di un rio, si intitola così. Il rio è il nome del rio al convento dei Domenicani. Io vorrei capire come si chiama questo rio. Il nome di questo rio è legato alla canzone che abbiamo appena ascoltato. Il rio inteso come fiume? Il rio sono le vie, certo, di Venezia, visto che c'è l'acqua lì. Allora, è un altro aiutino. Il rio può essere il rio dei mendicanti. Il rio dei mendicanti, bravo, grazie. Hai visto? Bene, due premi a Roma abbiamo dato oggi. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Nadia Zammiti in assistenza, Camilla Lauricella in regia, a voi ovviamente. Buona settimana da Stefano Gallarini. Ci sentiamo domenica prossima alle 10:00.